È martedì 4 giugno, intanto le scelte delle aperture che oggi sono abbastanza diversificate. Per il Sole 24 Ore pronte le liste per gli 007 fiscali, partono i test sul redditometro. Arriva, cari italiani, il redditometro. La scelta dell'Eternit, la condanna in appello per Repubblica, Eternit una condanna storica, la stampa Eternit condanna storica, l'identico titolo, il secolo XIX, Eternit 18 anni al padrone. E poi ancora c'è chi sceglie le riforme. Riforme, Napolitano spinge il Corriere della Sera, il Messaggero, riforme, Letta nomina i saggi. Oggi arriveranno i saggi. Addirittura si sconfina nel surreale con la prima pagina dell'Unità che pubblica un discorso di Giorgio Napolitano del 2008, quando Napolitano disse no. Libero, ecco cosa succede se usciamo dall'euro. Il Giornale invece, il caso Ruby, il processo è truccato, ecco le prove. Il Fatto Quotidiano, IMU, spiccioli dalla Chiesa, il Manifesto con la Turchia e le proteste, il Sultano è nudo, questo è il titolo di prima pagina, così come per Avvenire, Vulcano Turchia. Vabbè, io voglio partire da quella che è una classica truffa, però siamo alle indagini, le ipotesi di reato, ma certo è di quelle notizie che altro che mani sul volante, diciamo strettissime sul volante, magari qualche pugno ogni tanto se siete arrivati al semaforo, se siete fermi potete anche darlo, ma la vicenda dei soldi truffati all'INPS, soldi nostri, soldi di tutti, ripeto, è da dimostrare, ma l'inchiesta della Procura di Roma che coinvolge anche un senatore che è indagato, si tratta del senatore Aldo Di Biagio, oggi senatore di Scelta Civica, indagato per associazione a delinquere, i soldi truffati all'INPS per le finte pensioni, indagato un senatore, ecco io già quando sento nel titolo le finte pensioni, cioè secondo l'accusa rubavano allo Stato e hanno rubato 22 milioni di euro, avrebbero rubato secondo l'accusa. In questa organizzazione che, come racconta il Messaggero a pagina 13, un'intera pagina, battevano cassa per i pensionati, chiedevano rivalutazione di pensioni misere, trascinando l'INPS davanti al Tribunale di Roma, vincevano e incassavano perché i titolari di quegli assegni non sapevano nulla. Nell'associazione a delinquere che metteva in piedi cause contro l'ente di previdenza per ottenere aumenti, interessi su pensioni di morti, ignari cittadini, residenti all'estero in Sud America e Croazia, tra gli indagati c'è anche il senatore di Scelta Civica per l'Italia Aldo Di Biagio, è indagato per aver incassato nel business da 22 milioni 443 mila euro, perché l'accusa è quello di avere fornito elenchi di persone che appunto assolutamente ignare venivano messe in lista in questa che sarebbe stata l'associazione a delinquere per poi fare ricorsi all'INPS e ottenere rivalutazioni, pensioni anche per persone scomparse, cioè l'accusa per il senatore di questa associazione ideata da due avvocati romani che incassava illecitamente dall'INPS a nome di defunti o pensionati delle cifre era quella di avere fornito degli elenchi di persone da cui attingere per fare poi le richieste. C'è da dire che Di Biagio si difende, fa una serie di interviste alla Stampa, a pagina 19 la notizia dice: non ne so nulla, mi sento vittima di un carosello paradossale, va bene che nella vita quando piove bisogna aprire l'ombrello, ma questa è troppo, è tutto inverosimile, parlerò con il magistrato, non so che dire. La collaborazione con lo studio degli avvocati Staniscia, che è indagata, appunto risale a 15-20 anni fa, cado dalle nuvole. Insomma, io dice sono onesto, vabbè, questo poi si vedrà, per carità, siamo alle indagini, ma truffa all'INPS, quattro arresti, indagati un senatore montiano, così titola anche Libero, e poi Repubblica, maxi truffa all'INPS, indagato senatore, Di Biagio ha intascato 440 mila euro, queste sono, ripeto, le accuse con lui che si difende, intervistato da Tommaso Ciriaco, è inverosimile, io sono innocente, predico da sempre la moralità, questo si vedrà, ma al di là di tutto l'indagine, un raggiro di 22 milioni di euro, spunta un giro di raccomandazione all'università, fa sapere il Messaggero che nel tesoretto della banda c'era anche la villa a Cortina d'Ampezzo comprata in nero, Ecco, capite perché poi uno si arrabbia, perché legge, ora sarà tutto da dimostrare, per carità, ma già questo è motivo per, come dire, pensare poi ai conti dello Stato che non vanno bene e a queste presunte truffe. I conti del Comune di Roma invece come vanno? Beh, oggi Sergio Rizzo racconta a pagina 6 una vicenda che riguarda gli affitti del Comune di Roma. Sapete, cari ascoltatori, care ascoltatrici, quanto paga il Comune di Roma? Beh, intanto non è facile saperlo, perché ovviamente figurarsi se c'è trasparenza totale in tutte queste cose. Comunque, quanto paga il Comune di Roma in affitto di beni annuali da privati? Secondo te, Carmelo, Lauricella e regia, spara una cifra, hai poco tempo. 10 milioni di euro, dice, 10 milioni di euro. Paga 106 milioni di euro di affitto l'anno. Sergio Rizzo, pagina 6 del Corriere. La lettera, per la verità, di tre righe, si comunica che il sito istituzionale del Dipartimento Patrimonio è in via di perfezionamento, pertanto i dati completi o parziali verranno inseriti dallo scrivente non appena possibile. Ecco, stop. Un perfezionamento quanto mai laborioso, considerato che la legge con la quale è stata imposta ai comuni di pubblicare sui siti internet notizie e cifre relative agli immobili presi in affitto da privati è ormai più di un anno. Comunque sul Comune di Roma sul sito ancora non c'è. In ogni caso, su richiesta del segretario dei radicali romani Riccardo Maggi, che da mesi chiedeva all'assessorato al patrimonio del Campidoglio notizie sui contratti di due stabili affittati per necessità del consiglio comunale dalla società Milano 90, l'immobiliarista è quasi sempre lui, Sergio Scarpellini, si accontenta di queste tre righe di risposta. Con lui si devono accontentare anche tutti i cittadini della capitale d'Italia, nonostante una legge stabilisca che debbano essere informati su come vengono impiegati i loro soldi. E tanti soldi. Nel 2012 il Comune di Roma ha speso per affittare immobili dei privati una cifra stratosferica, 106 milioni e 780 mila euro, così dicono le delibere. Fa una media di 38 euro per ogni abitante di Roma. È una somma sbalorditiva se confrontata alle dimensioni di un patrimonio cittadino dell'ordine di 30.000 unità immobiliari tra appartamenti, uffici, edifici e locali commerciali. Non lo è, al contrario, ricordando le stime impressionanti di quanto Stato, enti pubblici, regioni, amministrazioni locali versano complessivamente ogni anno ai privati per gli affitti. Sapete quanto versano ai privati tutte le nostre istituzioni? 12 miliardi di euro l'anno. Per carità, l'affitto è uno degli strumenti, ma insomma mi pare che immobili ce ne siano anche di proprietà dello Stato. Comunque 12 miliardi di euro l'anno gli affitti da parte di tutte le istituzioni, regioni, Stato, ai privati. Solo a Roma 106 milioni di euro l'anno d'affitto nel 2012. Così Sergio Rizzo sul Corriere della Sera. Ora andiamo in 7 minuti di pubblicità. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Eccoci, cari eroi, se siete sopravvissuti fin qui. Però adesso vi devo un po' deprimere, perché la lettura dei giornali per il secondo giorno per me ha qualcosa dell'incredibile per quel che riguarda la politica. L'incredibile, cioè, con i problemi, il lavoro, l'economia, tutti i problemi che avete, le tasse, non so, mettetecele tutte. Di cosa parlano molti giornali ancora in apertura? Il dibattito della politica sulle riforme. Presidenzialismo, semipresidenzialismo, cancellierato alla tedesca. Cose che, facendo un'interrogazione alla quale non saprebbe rispondere credo 90 italiani su 100, e non interessano a 95 italiani su 100, poi a 5 italiani su 100 interessano certamente. Comunque, Napolitano accelera sulle riforme, questo è il titolo per esempio che trovate a pagina 13 del Sole 24 Ore. Attenzione, perché oggi verrà, tra oggi e domani, nominato un comitato di esperti, pare 20, pare 25, chi lo sa, pare che tra i nomi circolino i soliti Violante, Ceccanti, Onida, Pitruzzella, Zanon, Clementi, alcuni professori costituzionalisti, poi ci saranno probabilmente i vertici della magistratura, fa sapere il Corriere a pagina 3, quindi la notizia più importante. Da Unida Violante tornano i saggi nel comitato dei 25, articolo di Lorenzo Fuccaro. Ci sono appunto quelli che ho detto, poi vertici delle alte magistrature, Corte Costituzionale, Corte di Cassazione, Consiglio di Stato. E cosa dovranno fare? Beh, dare dei consigli sulle riforme, le riforme che entro 18 mesi dovranno essere approntate. E su questo Napolitano accelera, anche qui il Corriere della Sera, pagina 3, il piano di Napolitano. C'è il cronoprogramma per tenere il ritmo, avete capito italiani? Il cronoprogramma. Tenere il ritmo, questo secondo il quirinalista principe del Corriere Marzio Breda è quello che ha detto Napolitano. Bisogna fare proprio un cronoprogramma in modo che il comitato dei saggi possa assistere il governo per mantenere il ritmo sul piano delle riforme, arrivare tra 18 mesi ad aver ribaltato sul punto di vista delle riforme costituzionali il paese. Però uno gira pagina, perché sono dedicate alle prime 5 pagine a questo tema sul Corriere della Sera. A pagina 5, adesso Letta però vuole evitare i rischi di una fuga in avanti. Francesco Verderami racconta: dopo 30 anni di attesa e di fallimento, il rischio è che il percorso delle riforme si interrompa anzitempo per avere precorso troppo i tempi, anticipando un'idea di modifica delle istituzioni per la quale non sono state nemmeno gettate le fondamenta. Quindi, cronoprogramma di Napolitano. Ma Letta rischia, dice, si rischia la fuga in avanti. Uno pensa di leggere una tappa del Giro d'Italia, invece è la politica, è la struttura, il governo, è coloro che ci governano in Italia. Dai giornali, ma anche il Secolo XIX, pagina 4, il Colle convoca Letta venerdì il via alle riforme, segnatevelo sulla data, venerdì il via alle riforme, subito i saggi, subito. Ci saranno Pitruzzella e Violante, sono due dei nomi del Secolo XIX, e poi da venerdì il via alle riforme. Repubblica dedica anche qui pagina 2, 3, 4, 5, c'è Rosi Bindi a pagina 2 che addolorata dal Premier e da Prodi, questa è l'intervista, è una scelta che stravolge la carta, questa del semipresidenzialismo, io non scambio il governo Letta e la sua tenuta con la Costituzione che deve durare ben oltre le larghe intese. E c'è Rosi Bindi che spiega tutte le divisioni all'interno del PD, lei così addolorata dal Premier e anche da Prodi per questa scelta del semipresidenzialismo. C'è addirittura il PD, racconta pagina 4 Giovanna Casadio, spunta referendum sul presidenzialismo. Questo è il titolo di pagina 4. PD spunta referendum sul presidenzialismo, perché il PD è diviso. Ci sono i favorevoli come Prodi, Chiamparino, ci sono i contrari come Bersani e Cuperlo, ci sono i dubbiosi come D'Alema e Fioroni. E allora l'idea è quella di consultare gli iscritti, sostenuta su di consultare gli iscritti, è un'idea sostenuta per esempio dagli ex popolari come Fioroni, dagli ex DS Chiti, da Damiano. Ecco, il PD è diviso su questo tema, bisogna forse fare un referendum tra gli iscritti per capire il semipresidenzialismo. Vabbè, si arriva con la scelta più surreale a mio modo di vedere, per far capire che come sempre la carta costa e i giornali vendono sempre meno, l'apertura dell'Unità quando Napolitano disse no. L'Unità pubblica a pagina 3 un discorso in cui Napolitano disse no appunto a queste modifiche, che risale al 23 gennaio del 2008. A pagina 3 dell'Unità una notizia, un discorso di 5 anni fa. Questo è il tema sul semipresidenzialismo, presidenzialismo, cancellierato, eccetera. Poi oggi si insedieranno, oggi domani, il comitato dei saggi, vedremo i saggi cosa proporranno, tutti alla ricerca dei saggi, tutti a intervistare i saggi, ma venerdì partono le riforme. C'è il cronoprogramma, ma no fughe in avanti. ecco, in 10 secondi il riassunto politico sul tema del giorno è questo. Poi c'è che cosa? La vicenda giudiziaria di Berlusconi che sono raccontate dai giornali, il retroscena di un Berlusconi che viene dato come affranto, deluso, perché nel retroscena di Paola Di Caro a pagina 8 del Corriere il Cavaliere dice: io ho lavorato per la pace, ma nessuno ora fa nulla per difendermi. Un Berlusconi che è dato per angosciato, un Berlusconi che oggi tornerà a Roma dopo 10 giorni in Sardegna con l'idea anche di rivoluzionare il partito. Tutti guardano a che cosa? La data del 16 giugno, anzi scusate, il 19 di giugno. Il 19 la Corte Costituzionale si pronuncerà su una richiesta di legittimo impedimento al processo Mediaset, quello per cui è stato condannato in appello a 4 anni, una richiesta di legittimo impedimento che il Tribunale di Milano non aveva concesso, al che c'è stato un ricorso alla Corte Costituzionale. Se il 19 la Corte Costituzionale dovesse dare il legittimo impedimento, in qualche modo inficerebbe a ritroso tutto il procedimento d'appello. Ma, racconta Carmelo Lopapa in un retroscena di Repubblica, pare che Nicolò Ghedini, che ieri ha fatto la ringa difensiva al processo Ruby, dunque un altro processo, è andato poi ad Arcore da Silvio Berlusconi e gli ha fatto capire che la Corte Costituzionale sarebbe orientata a negare questo legittimo impedimento e quindi sarebbe confermato il procedimento in appello alla condanna ai 4 anni e si potrebbe procedere anche al terzo grado, alla Cassazione, si potrebbe arrivare alla condanna definitiva. E questo per cui delusione e rabbia sono i sentimenti di Berlusconi. Anche per il giornale l'indignazione del leader PDL sono finito in un tritacarne. Questo il retroscena di Fabrizio De Feo. Lo trovate a pagina 4. Tra l'altro Ghedini si è paragonato nella ringa difensiva, come fa notare tutti i giornali, a Raymond de Sés, l'avvocato di Luigi XVI. Lo stesso Ghedini ha detto all'epoca non finì benissimo, Luigi XVI finì decapitato, ma racconta Ghedini, proprio come de Sés, che parlò davanti a giudici che a torto a ragione si ritengono prevenuti. Ecco, questa è la ringa difensiva. Tra le altre cose ha detto i giudici sono prevenuti nei confronti di Silvio Berlusconi. Dall'altra parte c'è un Beppe Grillo che continua ad avercela con i giornalisti. Gli ultimi che ha nominate, che con cui se l'è presa direttamente, sono Lucia Annunziata e Andrea Vianello, direttore del TG3, che dice conduceva prima Agorà, un programma che ora cerca i dissidenti. Boh, non lo so, nella redazione di Agorà, se ci ascoltate, state cercando qualcuno che è dissidente? Non si può fare. Beppe Grillo dice che insomma è un lavoro un po' sporco, un lavoro giornalisti spregevoli, ecco, questo ha detto. Siamo in guerra, ha oscurato anche ieri, abbiamo sentito alle 6:30 una telecamera della RAI, perché ha detto avete fatto i vostri 3 minuti di servizio pubblico, adesso basta, io sono libero di farmi riprendere da chi voglio, oscurate, proprio invitato, aiutatemi, dai, fermatelo, oscuratelo. Giornalisti spregevoli, siamo in guerra, vabbè, la TV non ci andremo, la occuperemo, in realtà adesso cominciano a comparire anche volti in TV. Vabbè, ma insomma sono i soliti slogan che ripete ogni giorno. Tra l'altro sul 5 Stelle racconta il Quotidiano Nazionale che sarebbe pronta, questo lo scrive Elena Polidori a pagina 9, una lettera vera e propria dei cosiddetti dissidenti del Movimento 5 Stelle al leader Beppe Grillo. Sarebbe pronta una lettera, ieri c'è stata un'altra cena carbonara, racconta il Quotidiano Nazionale. I nomi dei dissidenti sono Alessio Tacconi, Aris Prodiani, Tommaso Currò, Adriano Zaccagnini, il gruppo dei senatori siciliani, ma anche molti altri, giura un grillino addetto ai lavori. Sarebbero quelli pronti a, in qualche modo, a tradire, secondo il Movimento 5 Stelle, il leader Beppe Grillo. E dall'altra parte Umberto Bossi che fa un'intervista a Fotocopia dopo quella del Fatto, questa volta parla con Gad Lerner su Repubblica e rincara la dose. Maroni è un traditore. Ma che c'ha Umberto Bossi? Si è svegliato così di colpo, dopo il traffico. Allora Umberto Bossi, questa volta con Repubblica, Gad Lerner, un'intervista a pagina 9, sempre più duro. Maroni è solo un traditore, è uno che ha tradito una volta, tradisce sempre, si illude di diventare il plenipotenziario di Berlusconi al nord. tutta un'intervista, a me non mi ammazza nessuno, ora mi riprendo la Lega, ecco lo sfogo di Bossi, che poi sui soldi al partito, dal partito a lui, pare 800.000 euro, così diceva la stessa Repubblica, dice ma sono tutte balle, nessuno è venuto a dirmi nulla, la Lega a me e alla mia famiglia non ha mai dato soldi che non servissero alla militanza. E poi dice, venite qui tra 10 giorni, vi do la prima copia del nuovo giornale. Un nuovo giornale? Sì, titolo, La lingua padana. Ricominciamo dalla nostra identità, ce n'è un bisogno enorme. E allora le assicuro che il traditore dovrà fare i conti con noi. Lo chiama ormai così, il traditore. Così Umberto Bossi a Marone, al che alla fine Gallerne fa la domanda, senta, ma lei, insisto, ma ce l'ha la salute per... l'energia per rimettersi a battagliare? Ce l'ho la forza io, a me non mi ammazza nessuno e stavolta mi hanno fatto davvero incazzare. Il capo della Lega resto io. Così Umberto Bossi su Repubblica. Lasciamo la politica, l'economia. Allora, sul Sole 24 Ore, proprio nel giorno in cui la Corte dei Conti ha richiamato dicendo che la lotta all'evasione fiscale è ondivaga in Italia, ondivaga. Arriva il nuovo redditometro, oggi tutti i dettagli sono sul Sole 24 Ore, è la prima cosa concreta che leggo per tutti gli italiani. Pronte le liste per gli 007 fiscali, partono i test sul redditometro, ai nastri di partenza il nuovo redditometro, attenzione perché ci saranno 30-35 mila contribuenti da monitorare. Sono sotto osservazione che cosa? I maxi scostamenti tra reddito dichiarato e spese accertate. Tu che stai ascoltando, tu, sì, proprio tu, potresti essere tra i 30-35 mila che vengono individuati se avete degli scostamenti tra il reddito e le spese fatte per il nuovo redditometro, anche se la Corte dei Conti lo ha già un po' bollato come uno strumento con potenzialità limitate. Comunque sono pronte le liste per il redditometro, pagina 3 del Sole 24 Ore, Gianni Trovati racconta tutto. Il nuovo strumento sarà applicato a circa 35.000 contribuenti, il focus sarà sull'anno d'imposta 2009, quindi se nel 2009 avete fatto qualche cavolata di scostamento, c'è Carmelo che ha fatto la classica faccia tecnico regia a guardare in alto come dire 2009, stai tranquillo, dormi sereno, insomma se poi ti bussano alla porta so che potrai spiegare tutto. Per quel che riguarda invece la cronaca c'è ancora molto di Turchia, ma non dico tanto perché non c'è tempo, e poi alle 9 se ne occuperà Simone Spezia. C'è la vicenda della Eternit con la condanna in appello maggiorata a Stefan Schmidheiny, uno dei magnati dell'Eternit svizzero, fino a 18 anni, arrivata la pena, e soprattutto indennizzi per quasi 90 milioni di euro. Sulla questione indennizzi però c'è tutto un giallo, come racconta Marco Imarisio molto dettagliatamente a pagina 19 del Corriere. La beffa dei risarcimenti difficili, 90 famiglie sono escluse, e poi per i risarcimenti che cosa cozza contro la possibilità di dare risarcimenti? Beh, la normativa svizzera, che pone ostacoli di ogni genere, a cominciare dalla mancata esecutività immediata delle sentenze italiane. La parola magica è delibazione, ovvero la conferma da parte dell'autorità giudiziaria elvetica del verdetto di ieri in Italia. Senza questo passaggio non sono possibili neppure i sequestri preventivi dei beni di Stefan Schmidheiny, che nel frattempo è un magnate che si è dedicato molto alla filantropia e che appunto non darà nulla, immagino, sua sponte. C'è da segnalare ancora un articolo che è l'apertura del Fatto Quotidiano sull'IMU e la Chiesa. Scrive il Fatto Quotidiano con Marco Palombi, la legge voluta da Monti, cioè quella di far pagare l'IMU anche per quei beni a uso destinazione mista della Chiesa, un po' commerciale, un po' per fini religiosi, che a volte rientravano in quella zona grigia, non venivano denunciati come per fini commerciali, non pagavano l'IMU. Monti ci ha provato, ma racconta il Fatto Quotidiano, la legge è inutile, la Chiesa continuerà a non pagare l'IMU. Beh, il titolo messo così è una falsità clamorosa, cioè la Chiesa paga l'IMU per gli immobili a uso commerciale. Per quelli però a destinazione mista, scrive il Fatto Quotidiano, la legge del governo Monti non ha una grande efficacia, non avrà una grande efficacia, questo almeno a giudicare dai comuni che dicono le entrate di quest'anno non saranno maggiori rispetto a quelle dell'anno scorso. Poi dicono che c'è crisi, ma non per tutti. Vi invito a leggere in conclusione la grande festa fatta a Parigi, 3 giorni, Euro Disney l'ha preso tutto per lui, dal principe saudita Fahad Al Saud, la trovate sul Quotidiano Nazionale ma anche sul Corriere della Sera. Il principe saudita affitta Euro Disney e fa una festa di laurea da 3 giorni per 70 ospiti al costo di 15 milioni di euro. C'è crisi, ma che gli frega al principe saudita? 15 milioni di euro pagati così in cash oppure in petrodollari, e ha fatto una bella festicciuola a Euro Disney a Parigi, 3 giorni, e beato lui che se l'è goduta questa bella festa di laurea. Laurea vera? Boh, chi lo sa. Intanto il giornale radio.